di tonnellate di petrolio. Neve e gelo mandano in tilt gli aeroporti della costa est degli Stati Uniti, ma anche quelli russi. Il cinepanettone di Neri Parenti vince la sfida di Natale, ma quest'anno gli italiani sono andati meno al cinema. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In apertura andiamo a Roma per una serie di allarmi bomba in varie sedi diplomatiche. Ci aggiorna in diretta Andrea Viali. Nella capitale dunque torna questo allarme per i pacchi bomba nelle ambasciate. Stamattina le forze dell'ordine sono intervenute in diverse sedi diplomatiche, in particolare in quella greca, dove è arrivato un plico che conteneva in effetti un ordigno che non è esploso solo per un puro caso, è stato aperto ma l'innesco non è scattato, poi sono entrati in azione gli artificieri che lo hanno neutralizzato. Questo pacco bomba sarebbe molto simile a quelli che erano esplosi ferendo due persone giovedì scorso nelle ambasciate di Svizzera e Cile. A rivendicare quell'azione era stata la Federazione Anarchica Informale e anche nel caso di oggi gli inquirenti sono convinti che la matrice sia la stessa. Si sono invece rivelati falsi gli altri allarmi scattati sempre questa mattina nelle ambasciate di Venezuela, Danimarca, Svezia e Principato di Monaco, dove erano stati individuati altri pacchi sospetti. Erano state le forze dell'ordine ad allertare tutte le ambasciate della capitale dopo giovedì scorso, invitandole a segnalare la posta sospetta in arrivo dopo la pausa delle feste di Natale. Quindi non è escluso che anche nel corso della giornata di oggi possano scattare nuovi allarmi. Per ora da Roma è tutto. Grazie ad Andrea Viali. È una bomba incendiaria di media potenza esplosa questa mattina davanti alla sede di una banca di Atene, causando danni, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. L'ordigno è dello stesso tipo usato solitamente dagli anarchici. In Russia ora per la nuova condanna per l'ex magnate Mikhail Khodorkovsky. Ci racconta tutto qui accanto a me Gigi Donelli. Ecco dunque, questo è il telegiornale dell'una, due ore fa in Russia, quindi l'intera Russia sa che Khodorkovsky è stato condannato nuovamente perché di fatto l'ex uomo, pensate, più ricco di Russia, era ancora nel 2004 il 17esimo uomo più ricco al mondo, è in carcere dalla fine di quell'anno in Siberia, quindi una prima condanna e ora rischia addirittura 14 anni di carcere per questa seconda condanna. Danna che lo vede giudicato colpevole di avere sottratto appunto 218 milioni di tonnellate di petrolio per un valore stimato di 100 milioni di dollari. Certo, questo è soprattutto un caso esemplare e politico, perché non si può apprezzare l'importanza di questa storia senza ricordare che Khodorkovsky fu l'uomo che appunto nel 2003 si oppose all'ascesa di Putin, provò a costruire un proprio partito, insomma si scontrò con il leader. Ed è stato proprio il primo ministro, l'ex presidente, oggi primo ministro, a invocare una sentenza pesantissima, nonostante il suo successore al Cremlino, Medvedev, abbia fatto una richiesta in senso contrario. Insomma, un nuovo caso esemplare per la Russia. Ecco, ma i media russi cosa dicono di questo caso? Sono attenti? I media russi lo seguono e infatti tutti i siti e le televisioni lo raccontano, ma non è il fatto da prima pagina. Il fatto da prima pagina riguarda la vita quotidiana e le grandi nevicate che rendono complicata la vita appunto dei normali cittadini. Grazie a Gigi Donelli. E mentre torna la normalità il traffico aereo in gran parte dell'Europa, è stato d'emergenza sulla costa est degli Stati Uniti, colpita da una forte ondata di maltempo. Situazione critica, lo abbiamo sentito anche con Gigi Donelli, invece in Russia. 1.300 feriti per il ghiaccio nelle ultime 24 ore nella sola Mosca. Basterebbe questo dato per descrivere la situazione in Russia, stretta nella morsa del maltempo, con forti disagi nei trasporti, soprattutto aerei. Dopo il blocco di ieri, ritardi di ore si continuano a registrare all'aeroporto internazionale Domodedovo di Mosca. Disagi anche nell'approvvigionamento elettrico, circa 67.000 persone sono rimaste senza corrente. Traffico aereo ancora paralizzato anche sulla costa est degli Stati Uniti, dove nevica da ieri e oggi è atteso mezzo metro di neve. Stato di emergenza in 4 stati, Virginia, Maryland, Massachusetts e Maine. Ferme anche le ferrovie. Praticamente bloccati gli scali di New York, migliaia i voli cancellati. In Europa, mentre torna alla normalità, il traffico aereo preoccupa il freddo. In Polonia, 10 gradi sotto zero in quasi tutto il paese, durante le feste di Natale sono morti 8 senza tetto. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'Italia intanto si prepara ad una settimana di cielo sereno, ma temperature sotto zero. L'ondata di freddo viene dal nord Europa. La scorsa notte sul Pianerosa in Val d'Aosta sono stati percepiti meno 30 gradi, a fronte dei meno 12 di Cortina e dei meno 4 di Torino in pianura. Si comincia col settentrione, dunque almeno fino a mercoledì l'assenza di nuvole dovrebbe far scendere la colonnina di mercurio sotto le medie stagionali. Il clima più rigido dovrebbe colpire le regioni adriatiche e il nord-est, dove potrà anche nevicare, ma ben vengano i fiocchi per chi vuole approfittare delle feste per andare a sciare. Al comprensorio di Dolomiti Superski, il direttore Franz Peratoner non nasconde l'ottimismo. La stagione è iniziata bene, abbiamo avuto un sacco di neve, siamo riusciti anche a farne tanta perché ha fatto molto freddo e anche in questi ultimi giorni le piste sono veramente perfette, è aperto l'intero comprensorio, tutti gli impianti sono aperti. Il meteo è positivo, cioè finalmente abbiamo tempo bellissimo, non c'è una nuvola e i prossimi giorni il sciare sarà una cosa meravigliosa. Michele Albini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. I sindacati dei gestori dei benzinai sono stati convocati oggi pomeriggio nella sede milanese del Ministero dello Sviluppo Economico per comunicazioni urgenti. I benzinai avevano minacciato uno sciopero per protestare contro il mancato rinnovo del bonus fiscale atteso nel decreto mille proroghe. Intanto ancora rialzi per il prezzo della benzina e del diesel. Tra venerdì e oggi IP ha aumentato i prezzi di un centesimo, Tamoil e Total Erg di mezzo centesimo. In alcuni impianti del sud la verde sfiora quota un euro e mezzo al litro, mentre il gasolio si avvicina a 1,38 euro. Anche stamattina militari al lavoro per liberare le strade di Napoli. Secondo l'assessore all'igiene urbana del comune di Napoli, comunque, Paolo Giacomelli, ce la possiamo fare entro Capodanno. Sentiamo l'intervista di Laura Bettini. C'è una stima intorno al 30% in più in questa settimana di quantità di rifiuti prodotti. Quindi bisogna fare a maggior ragione attenzione a suddividerla la spazzatura in questi giorni. E questo sì, nelle zone in cui noi effettuiamo il servizio porta a porta, noi stiamo continuando ad avere una qualità della raccolta differenziata abbastanza soddisfacente. Purtroppo nelle zone in cui la raccolta differenziata è solo attraverso le campane stradali è più difficile la separazione del multimateriale leggero, plastica, alluminio e della carta. Quindi a questo si riferiva nel dire tenete a casa gli imballaggi, i cartoni ancora per qualche giorno? Esattamente, la mia speranza era quella, proprio perché si trattava di frazione secca. Non ci fa ben sperare quello che è accaduto, a mio avviso particolarmente grave, questa notte nella discarica di Chiaiano, un raid che ha colpito 9 mezzi dell'azienda comunale. Fiat e sindacati si riuniranno domani a Roma per mettere a punto il contratto di lavoro per la Nuco dello stabilimento di Pomigliano, che comincerà ad assumere da gennaio 2011. La trattativa su salario, orario, scatti di anzianità dovrebbe concludersi entro il 31 dicembre, ma l'obiettivo dei sindacati è di trovare un'intesa in tempi brevi, probabilmente già mercoledì 29. L'accordo farà probabilmente da apripista anche la trattativa per lo stabilimento di Mirafiori e poi per il contratto dell'auto. Alla discussione non partecipa la FIOM, che, come sapete, non ha firmato l'accordo di giugno. Ed ora il nostro consueto appuntamento con l'Italia che rialza la testa. Venti di ripresa. L'Italia che riparte. Nel 2009 la riduzione del nostro fatturato rispetto al 2008 è stata di circa tra il 30 e il 35%. Nel 2010 abbiamo recuperato circa un 15% rispetto al 2009. Eufrasia Anghileri ha fondato nel 79 Eusider, azienda che distribuisce prodotti siderurgici. Diversi stabilimenti in Lombardia, con sede principale a Costa Managa, nel Lecchese. 120 dipendenti. Ecco come, secondo Anghileri, è arrivata la ripresa. Un po' ci ha aiutato il mercato, perché una leggera ripresa c'è stata e un pochino di ottimismo rispetto al disastro del 2009, lo si nota e lo si sente. E poi la ricetta è stata molto semplice, la strategia è quella dell'impegno, della tenacia e della costante attenzione al nostro lavoro, al nostro mercato, e concentrarsi sul core business senza diversificazioni e senza distrazioni. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ladri in casa del governatore del Veneto Zaia nel giorno della vigilia di Natale. Quattro persone incappucciate hanno sfondato una porta e una vetrata nella casa di Refrontolo, sono entrati e hanno aperto la cassaforte, che però era vuota. È un mistero il caso di Monique van der Forst, la 26enne campionessa paralimpica olandese che dopo 13 anni di paralisi ha ricominciato a muovere le gambe. Potrebbe però trattarsi di un caso di paralisi isterica, dice il fisiatra Walter Santilli, primario dell'unità spinale del CTO di Roma, lo ha intervistato Adriana Fracchia. Premettendo sempre che io non conosco il caso clinico, quindi stiamo ragionando su notizie di stampa, non è comprensibile come possa essere accaduto che dopo tutti questi anni il midollo spinale abbia ricominciato a funzionare, perché anche nei casi più ottimisti all'interno dei successivi 2 anni si hanno dei recuperi parziali quasi sempre, ecco. Ma nella stragrande maggioranza dei casi è nelle settimane successive all'incidente. Quindi qui ci troviamo di fronte a un caso unico nella storia della medicina. Esiste la paralisi isterica, l'aveva ben descritta Charcot, che era primario neurologo a Parigi nell'Ottocento, alla Saint-Pétrière. Almeno come ipotesi, noi non possiamo dare una certezza ma inserirla all'interno delle ipotesi. Dopo 13 anni, a parte i casi dovuti a miracoli, entriamo in un ambito di fede ovviamente. Nella sua esperienza clinica questo caso non si è mai verificato? No, mai. Ronaldo confessa: ho scelto la vasectomia. Il campione del mondo ha dichiarato ad un giornale brasiliano di aver subito un intervento di sterilizzazione chirurgica. Non vuole più sentir parlare di figli. Luis Nazario de Lima, in arte Ronaldo, ha dichiarato di essersi sottoposto a un intervento di vasectomia. Il 2 volte pallone d'oro è già 4 volte padre di Ronald, Maria Sofia, Maria Alice e Alex, l'ultimo riconosciuto solo quest'anno al termine di un contenzioso con la cameriera Michelle Umezu. Ho chiuso la fabbrica dei figli, ha dichiarato il campione al quotidiano brasiliano Folha de San Paulo, scatenando i commenti della stampa scandalistica. Se infatti il numero 9 è uno dei calciatori più prolifici, ad incrinare la sua reputazione di tombeur de femme ci pensò 4 anni fa una escort, che rivelò a letto non è un granché. Ronaldo non è il solo fenomeno ad aver scelto la chirurgia antisterilità. Come lui fece infatti Pelé, che poi, pentito, ricorse all'inseminazione artificiale. Jacopo Matano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Brutta avventura questa mattina per chi viaggiava sul treno regionale Chiusi Firenze, rimasto bloccato per ben 3 ore in galleria. I 400 passeggeri hanno potuto riprendere il viaggio solo dopo essere stati trasferiti su un altro treno. Ritardi anche sugli altri convogli che viaggiavano sulla linea. Sarà di 415 euro la spesa media delle famiglie italiane per gli acquisti nei saldi invernali. Secondo la Confcommercio si spenderanno in abbigliamento e accessori circa 6,2 miliardi di euro. I saldi partiranno il 2 gennaio a Napoli, Palermo, Potenza e Catanzaro, mentre i consumatori di Roma, Milano, Venezia, Firenze, Torino e Genova dovranno aspettare il 6 gennaio. La classica sfida di Natale al cinema è vinta dal cinepanettone di Neri Parenti, Natale in Sudafrica, ma incalzato da vicino dalla banda dei Babbi Natale, con un distacco di circa 2 milioni nel weekend. 6,149 milioni per Natale in Sudafrica, 4,800 milioni per i Babbi di Aldo Giovanni e Giacomo. Al terzo posto il thriller romantico con Angelina Jolie e Johnny Depp, The Tourist, che ha incassato oltre 2 milioni di euro. Gli incassi complessivi nel weekend natalizio scendono però di quasi 1 milione rispetto all'anno scorso. Ed era l'ultima notizia di questo GR24, il prossimo alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.